Riflettete attentamente. La velocità è 0,5 metri al secondo. Il tempo è 10 secondi. Sapete quindi che 0,5 metri al secondo si ottiene dividendo i metri percorsi nella caduta per 10 secondi.